Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Russia con Serena Vitale. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il viaggio di oggi è un viaggio temporale e non solo spaziale. Sto per incontrare Serena Vitale nella sua casa di Milano. E come ci ha tenuto a sottolineare lei ancora al telefono quando abbiamo preso l'appuntamento per l'intervista, quello di cui mi vuole parlare appartiene al passato. Non mi faccia domande sui nuovi russi, ha ribadito più volte. Infatti, ora che sono nel suo salotto, sul divano di fronte a lei, mi aspetto di ascoltare storie che arrivano dall'Unione Sovietica, quella che Serena ha conosciuto alla fine degli anni 60 e di cui parla nel suo libro A Mosca a Mosca, anche se qualche cenno alla Russia moderna sono certa non mancherà. Nome Russia, capitale Mosca. Confini. Ad ovest confina con vari stati europei e alcune repubbliche dell'ex Unione Sovietica. A sud con gli stati dell'Asia centrale, a nord e ad est con tre oceani. Mar glaciale Artico, Oceano Atlantico, Oceano Pacifico. Superficie 17.075.400 km². Abitanti 148.249.000. Clima. Il clima è prevalentemente continentale. Forma di governo. Repubblica semipresidenziale federale. Lingua ufficiale. Russo. Fuso orario. Data l'ampiezza del paese, i fusi orari sono diversi a seconda del luogo in cui ci si trova. Mosca di San Pietroburgo, 3 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich, 2 ore avanti rispetto all'Italia. Documenti. Passaporto con almeno 6 mesi di validità. Moneta. Rublo russo. Un rublo russo uguale 0,0246 euro. Religione. La religione tradizionale e più diffusa è il cristianesimo ortodosso, rappresentato prevalentemente dalla Chiesa ortodossa russa. La seconda religione per diffusione è l'Islam, presente soprattutto tra i gruppi etnici turchi ma riguardante anche alcuni slavi convertiti. Sono presenti anche significative minoranze di protestanti, cattolici, buddisti e induisti. La componente neopagana è di difficile quantificazione. Anche in conseguenza dell'ateismo di Stato del passato regime comunista sovietico sono particolarmente diffusi ateismo e agnosticismo. Prefisso internazionale, più 7. La curiosità è altissima. Cosa deve essere stato arrivare proprio a Mosca alla fine degli anni 60 per una ragazza italiana? C'era allora una linea meravigliosa, l'ho fatta 2 o 3 volte, che passava da Praga, da Varsavia e da Praga, o da Praga e Varsavia, e si arrivava, era un po', c'era il tempo per scendere a Praga, a Varsavia, dei vagon lì che costavano pochissimo, me lo ricordo, e ci si arrivava gradatamente, come sempre succede col treno, e quindi il paesaggio ti cambiava sotto gli occhi e ci si arrivava un po' preparati, perché si scendeva nello squallore di quella che era la Varsavia dell'ora, nella bellezza terribilmente offesa di Praga, che non ha mai avuto. Varsavia è stata bombardata, Praga è la città più bella del mondo, ma il regime degli amici sovietici l'aveva, e si arrivava un po' più preparati. E mentre i suoi 2 stupendi gatti persiani, Yorick e Nina, ci girano intorno, mi racconta che il primo impatto è stato comunque sconvolgente. È arrivata durante il weekend con 3 amiche, tutte lì per motivi di studio. Questo ha comportato un inconveniente non da poco. L'ambasciata che le avrebbe dovute aspettare per farle accomodare nei loro alloggi era chiusa. Si erano in un certo senso dimenticati di loro. Così sono state costrette a rimanere per 2 giorni in un albergo di infima categoria, senza nulla da mangiare se non delle caramelle al limone. È stato l'inizio di una serie di peripezie e non capivo Mosca. Poi siamo andati appunto in questo palazzone che è l'MGU e attraversando tutta Mosca, allora lì hai un'impressione, una città bellissima nel suo grigiore, in quello che restava. E siamo arrivati alle colline Lenin, ex Colline dei Passeri, poi Lenin, poi, ex, poi di nuovo Colline dei Passeri. C'è anche questo sconforto in chi viaggia nella Russia di oggi, perché il fatto di questo continuo ex Stalingrado, ora così, si fa fatica. Le strade poi è una cosa terrificante, perché tutte sono state ricambiate, è stato ricambiato il nome dopo la rivoluzione e poi ricambiato adesso, per cui io poi che soffro di deficit di orientamento ho dei problemi. E beh, sono arrivata, era in tutto il suo splendore, fine settembre credo, e c'era quello che era proprio la meravigliosa estate, l'estate indiana, quest'oro, perché eravamo in collina, cioè proprio decentrate in questa specie di tortona con cui Stalin voleva imitare i grattacieli, una cosa enorme, 45.000 persone al giorno. Io che sono nata a Brindisi ho detto santa pace, più della metà dei brindisini, e mi faceva un po' impressione questa grandezza e questa simmetria di questo palazzo. E poi un bel giorno è finito l'oro, è venuto il grigio, e poi un bel giorno il bianco, questo bianco che ti mangiava l'anima dalla neve, tutti questi pini, quindi una cosa meravigliosa. Dall'oro del cielo di settembre al bianco dell'inverno moscovita, quante altre cose saranno rimaste intatte? Poi la città sconvolgente per la sua grandezza innanzitutto, questa cosa che i russi dico andiamo a piedi, dice, ma qui dietro l'angolo, solo che dico, ma quanti angoli, a che numero? E obiettivamente diciamo dal 22 al 24, ma dal 22 al 24 posso passare anche un chilometro e mezzo in Russia, a Mosca, questa è Mosca gigantesca. Eh sì, poi l'ho vista cambiare, evidentemente quella che era la via principale, via Gorky, è ridiventata via Tverskaya, e adesso è tutta una luminaria, allora era grigia, con dei palazzoni grigi, con le persone arrabbiate, parlo degli anni, fine anni 60, e tuttavia riusciva a essere bella. Certamente la bellezza di una città come Mosca è rimasta intatta. Forse bella per cose diverse allora, ma pur sempre bella, nonostante tutto, come dice Serena Vitale. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Russia con Serena Vitale. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono con Serena Vitale in Unione Sovietica alla fine degli anni 60. Mi sta facendo fare un viaggio indietro nel tempo, anche se molte delle cose che racconta appartengono sicuramente alla Russia di oggi. Per esempio, la grandezza di una città come Mosca non è di certo cambiata, tantomeno la sua bellezza, anche se per cose diverse. Immutabile, ovviamente, il cielo, che dall'oro delle giornate di settembre, quando Serena ci è arrivata per la prima volta, si è trasformato verso l'inverno in un bianco accecante. A farci compagnia in questo salto nel passato ci sono i suoi due gatti. Tra un rimprovero e l'altro, soprattutto a Yorick, il maschio, che pare voglia più attenzioni dalla sua padrona impegnata con me nella chiacchierata, Serena comincia a parlarmi dei russi. C'era quella, la malattia, il morbo che ha inoculato il sistema sovietico, che è stato quello dello sdoppiamento. Per cui a casa eri una persona, fuori sul lavoro e dunque anche per strada, sgarbato, maleducato, come se fosse il codice morale del comunista fosse essere sgarbato. Poi in casa naturalmente si cambiava e c'erano le vecchie nonne dove sembrava di tornare, quelle sopravvissute naturalmente, di trovare un pezzo di Russia antica, l'ospitalità, così. Le sue storie sono sempre più affascinanti. Russia antica, Russia moderna, Unione Sovietica, in un'unica grande esperienza. io riconoscevo i veri amici, cioè le vere persone straordinarie, e ho avuto la fortuna di conoscerne molte, da questo fatto che non per strada si comportavano esattamente come a casa. Era la gentilezza, era, e allora questo ti apriva il cuore. Non erano moltissimi, erano intellettuali per lo più, erano dissidenti in pectore come ogni russo, loro lo erano un po' più in pectore anche nella testa e così. E niente, sono nate delle amicizie difficili, credo, da nascere, e che difficilmente sarebbero nate in altri luoghi del pianeta, o forse sì, ma c'era questa isoglossa che legava il meridione d'Italia all'espansività russa quando si superava questa barriera terrificante della paura. E le persone che mi hanno testimoniato questo salto della barriera rimangono per me dei piccoli eroi davvero. Balla laica, balla laica, o shiri li meshkachech Yerushalayim. Balla laica, balla laica, o dishana shiri beretz Yisrael. Balla laica, balla laica, o dishana shiri beretz Yisrael. Mi viene in mente il primo aneddoto che mi ha raccontato sul suo arrivo a Mosca e sul fatto che per un paio di giorni si è dovuta sostentare solo con delle caramelle al limone. Le chiedo qualcosa in più sul cibo. Ma a Mosca, ma fino a tutti gli anni Ottanta, cioè andare in un ristorante, cioè il ristorante poi non era concepito come da noi, un ristorante per mangiare, il ristorante si va per ballare. Allora c'era questo, ricordo una volta c'era Moravia, in uno dei viaggi con il sindacato scrittori, caro Moravia, che tutti conosciamo, sappiamo che era un po' sordo, e mi ha detto: signora Vitale, ma vede che meraviglia, finalmente un ristorante silenzioso. Ah, ho detto io. Ci sono queste orchestrone che cantavano, non so, pop sovietico, una delle cose, credo che solo il pop bulgaro possa essere, ho detto, una cosa terrificante, e tutti i colonnelli che ballavano e servivano dopo due ore. Quindi noi italiani che andavamo per mangiare, proprio per mangiare, non si poteva andare. Andare in un ristorante e sorbirsi per due ore della musica pop ad alto volume prima di mangiare deve essere una tortura, sono d'accordo con Serena. Ma nelle sue storie c'è anche una brutta esperienza con i balletti. I balletti sì, me li sono visti molti, soprattutto che lì c'erano dei meravigliosi panini col caviale, cioè tartine col caviale, però me ne andavo via. Adesso odio il balletto, perché per mangiare, per andare da qualche parte, cioè, ho visto 800 volte il Lago dei Cigni, c'erano due o tre in via Gorki, la principale, due o tre caffè, con delle file che facevano anelli che sembravano dei cobra, per cui non era possibile. E allora io cosa facevo? Andavo soprattutto gli spettacoli mediocri, non dove c'era, non so, la Plissetska, così, dove c'era così di routine. Prendevo un bagarino, prendevo il coso, entravo, aspettavo il primo tempo, poi mi precipitavo verso l'uscita e c'era questa tavola imbandita, comprando, compravo le tartine, e quello era il modo, perché o mangiavo da amici o mangiavo, non si poteva sempre andare a scroccare cibo. E quindi mi ricordo, adesso ricordo con orrore, tendono di riportarmi, cioè, che c'è un meraviglioso Lago dei Cigni, ho detto no, vi prego. Fare la spesa non era una cosa semplice in Unione Sovietica, perciò per mangiare a casa ci si doveva organizzare. Cioè uno non è che va e dice mi dà per esempio tre etti di, che so io, ammesso che ci fosse, di prosciutto, mettiamo che ci fosse, e la signora occhi per lui ti dice paghi tanto alla cassa, torni così, no. Bisogna andare a vedere, innanzitutto chiedere c'è qualcosa, cosa vedere che cosa c'è. E a me è capitato, ho detto, senti, c'ha per caso del salame, così c'è. Cioè, loro guardi, qui siamo nel reparto del non c'è salame, se va del non c'è pesce, se va più a destra trova il non c'è salame, che è terribile, ma è così. E io pensavo fosse una barzelletta. Ma ad ogni modo, allora, tu vedevi cosa c'era, quindi facevi una fila per avvicinarti a vedere che cosa c'era. Fantastico. Puntavi, per esempio, quel giorno c'era il burro e la panna. Allora tornavi e facevi il ticket per il biglietto dicendo il prezzo, che dovevi indovinare facendo rapidi calcoli, perché c'era scritto burro, che so io, 3 rubli al chilo, cioè, va bene. Allora io facevo il biglietto, un'altra fila, c'è il biglietto e per esempio 1 rublo di burro, andavo lì, dice no, non c'è, è finito, ce n'è rimasto per 80 copeche, va bene, me lo dica, glielo lascio, no, dovevo rifare la fila, una cosa. E queste povere donne sovietiche, nessuno ha mai capito cosa, che dovevano lavorare perché avevano raggiunto la parità dei sessi, lavorare, mantenere la famiglia, contribuire, tenere i bambini, tornare a casa e fare la spesa. Io dopo un pochettino mi sono stufata, appunto mangiavo le tartine dei balletti e ogni tanto portavo degli spaghetti, compravo degli spaghetti e facevamo delle grandi spaghettate, non si poteva campare così. Вечерняя грусть в окно постучит ко мне, но я не боюсь, я сам ее звал к себе. О, как высоко и как независимо. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Russia con Serena Vitale. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Unione Sovietica fine anni 60. Con noi c'è una giovane studentessa arrivata da Brindisi, la stessa ragazza che adesso, ormai donna, è seduta di fronte a me in una casa a Milano a raccontarmi dopo 40 anni di quell'esperienza. È Serena Vitale. Tra i ricordi più vividi c'è quello legato al cibo, al modo di procurarselo, che non era di certo facile, ma faceva parte dell'avventura, come quando eri per strada e ti veniva fame. Per esempio l'idea di uscire per strada e dice mangio qualcosa per strada, mangio un panino, gelati, ecco, si mangiavano, c'erano dei bellissimi gelati, un solo gusto, però c'era alla crema, e a volte c'ha cioè, meno 30 per non morire dove mangiare il gelato, perché era l'unica cosa che si vendesse per strada, andando per strada. Le mense delle biblioteche e degli archivi erano cose assolutamente, cioè io ho mangiato di tutto in vita mia, non sono assolutamente una schizzinosa, ma proprio la puzza era terribile. Un gelato a meno 30 non è una cosa che mi attira, anche se come lo racconta Serena fa sorridere, ma il racconto prosegue e adesso il sorriso si trasforma in risata. L'altro grande problema che faccio ridere a tutti era quello di far la pipì, perché se uno esce, certo, io abitavo, parlo della prima volta, ma anche quando abitavo in alberghi, in cose, abitavo all'albergo, facevo il giro, questi viaggi a Mosca costavano, non è che non costassero, e quindi ogni giornata dovevo farla fruttare, passare a vedere gli amici e andare in biblioteca, andare nell'archivio, così. E dove facevo la pipì? Non c'erano posti. Una volta ho visto una toilette pubblica e ancora corro, cioè non si può immaginare, anche quello era considerato un bene borghese. Gli uomini si fermavano per la strada, non so come non si congelasse tutto. E una volta, io che ho la faccia tosta, sono entrata a casa di una signora, ho detto senta signora, sono un'italiana, abbia pazienza, perché poi se ci si metteva in fila per i bar il gelo ti complicava il problema. Alla biblioteca Alieni, dove ho passato credo metà della mia vita, i bagni turchi erano impossibili da descrivere, erano bagni turchi e intorno a questo buco, adesso vorrei che il mio racconto fosse il meno scatologico possibile, crescevano delle colonne di carta o vatta, così, e allora dico no, mi rifiutavo, e che si fa? E allora poi ho avuto un'amica in via Gorki, sempre che è al centro. Era importante farsi gli amici via Gorki, perché si passava di scuola, posso fare la pipì un momento? E poi davvero quando andavo a Mosca non bevevo liquidi, perché no, adesso è tutto cambiato, si può prendere del meraviglioso caffè italiano dappertutto, però non è un caso, i nuovi ricchi russi la prima cosa che fanno è il bagno. Un bel problema non sapere dove fare pipì. Eppure il bagno è per i nuovi russi un segno di emancipazione, come ci spiega Serena. C'è stato un periodo, fine anni 90, ricordo una poetessa straordinaria, Madulina, poverina, è morta proprio 2 mesi fa, che con era stata del dissenso, di Metropol, così. Sono stata a trovarla, era per il Capodanno del 99, del 98, non mi ricordo, e mi ha dato questo nuovo indirizzo dove lei viveva con Boris Messerer, che è il scenografo del Bolshoi, il suo ultimo marito. E dico, ma che bel palazzo, bella Katovna, dice, venga, e mi fa vedere il bagno, come noi facciamo vedere, non so, guarda che cucina che ho comprato, guarda il salotto. Mi ha fatto vedere il bagno, cioè una persona, una poetessa straordinaria, però per loro il bagno era il simbolo che fosse passata l'orrore sovietico. Ma torniamo per un attimo a quelle cose che sono rimaste le stesse, come certi paesaggi, certi profumi, certi colori. Il bosco russo è una delle cose più belle che esiste. Dopo, da quando ho scoperto che esiste quello che si chiama il bosco ubriaco, esiste il bosco ubriaco perché la terra è fatta, non è che beva il bosco, no, semplicemente i rami nascono in più direzioni in uno speciale terreno, ed è una meraviglia veramente. Poi i colori, questo in autunno evidentemente, in primavera così. Poi un'altra cosa, per esempio il profumo della Siberia. Io quando ci hanno portato a vedere, tra le cose più belle che io abbia visto veramente, il lago Baikal, questo lago che è un mare più grande del, credo che sia 3 volte l'Italia, no? Per cui vedi, c'è tutto questo corone di montagne bianche, era bellissimo. Questa è la Russia che vale il viaggio. Ma fuori la campagna e soprattutto questi luoghi che ho avuto la fortuna di visitare, la Siberia, oppure per esempio Tbilisi, Tiflis, capitale della Georgia, quella era una città profumata di, anche se era stata iper sovietizzata, però manteneva questo fatto di città solare del sud. Adesso penso che sia desolata dopo la guerra, cioè mentre Mosca si imbrillantina tutto, Tbilisi non è più la stessa. L'Armenia, lì non è l'odore, la cosa più importante in Armenia è questa visione dappertutto, vedi l'Ararat, cioè questo è il cielo del mondo, no? Questa tovaglia bianca sul tetto del mondo, e quelle sono cose bellissime, i profumi orientali di Bukhara, c'è da souk, profumo così, perché l'Unione Sovietica era tante cose insieme. L'odore mio preferito è quello, no, c'è un odore preferito, quello del lillà a giugno, soprattutto a Leningrado, perché si confonde Leningrado, Pietroburgo, San Pietroburgo, poveretta, una città che ha cambiato più nomi che non lo so io, si confonde con un leggero odore di urina di gatti che c'è in tutti i cortili, perché i russi amano molto i gatti, quindi li amo anche per quelli, anche per questo motivo, questo leggero odore di urina di gatti e questa esplosione di lillà che dura 7-8 giorni, rende la città tutta bianca e color glicine, e nelle notti bianche tutto questo ha un profumo che è anche visivo, come dire, meraviglioso. Автостопом прямо к сердцу доберусь, не приходит. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Russia con Serena Vitale. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono con Serena Vitale. E tra le immagini che ci riportano indietro nel tempo, ce ne sono altre che sicuramente non conoscono età, come quelle dei paesaggi della Siberia o del Bosco Ubriaco, dei profumi di San Pietroburgo o dei colori della Georgia. Immagini che sono di ieri come di oggi e di sempre. La Georgia, tra l'altro, ha un posto particolare nella memoria di Serena. Lì c'era un altro pericolo in Georgia, parlo della Georgia sovietica, Non so, non l'ho vista dopo la... Però i georgiani sono dei tipi che i nostri pugliesi e siciliani in confronto sono dei ticinesi, ecco. Allora, innanzitutto generosi, espansivi, un po' folli, simpaticissimi. Io mi sono innamorata della Georgia per i colori, arrivavo dal bianco e lì vedevo questi mercati. Sembrava mercasuco orientali, con dei colori, con della frutta. Ma quale sarà questo pericolo? Non soltanto bisognava bere, se no si offendevano da morire, ma se si metteva l'occhio, che bello questo portacenere, il giorno dopo in camera te ne trovavi 5. E allora, e 7 banchetti al giorno, in ognuno dei quali veniva fatto... C'era questa cosa del tamadà, che il comandante del banchetto, che comincia a fare i brindisi prima all'ospite, donna, poi alla moglie del padrone di casa, poi all'amico del padrone di casa, arrivando fino all'autista, e ogni volta delle cose terrificanti. E una volta addirittura un mio amico che mi accompagnava è andato in coma etilico, poveretto. Eh sì, perché agli uomini li danno ancora adesso dei corni di corno proprio, che non si possono posare, ripieni di cognac, per cui chi non è abituato... La vodka, una bevanda così connaturata con questo paese che i racconti della Vitale mi sembra di averli già sentiti fare da altri che sono stati in Russia. Forse in Unione Sovietica era addirittura peggio. L'unica cosa che ho scoperto è che la vodka, che venne portata dagli italiani come medicamento nel 400, nel secolo XV, sì, ha queste virtù. Per esempio, ho avuto per qualche tempo una specie di badante che mi aiutava quando stavo avuto un'operazione russa, che stavo male, ci prenda vodka con sale, l'influenza, vodka con sale, un dito di vodka con sale è fantastico, perché o si muore subito o si guarisce da qualsiasi cosa. Quello sì, come medicamento, oppure raffreddore, mettere un po' di vodka nel naso. E le nonnine russe, ripeto, le sopravvissute, usavano questo, per esempio, raffreddore, bronchite, impacchi di vodka, tutto nasceva e finiva, la giornata nasceva e finiva con la vodka. Io non ne posso più sentire l'odore. Il rischio di diventare un etilista è stato scongiurato anche da una tecnica che Serena mi racconta di aver affinato nel tempo. Consisteva in contorsioni col bicchiere che lei regolarmente versava di nascosto in quello del suo vicino o nei vasi delle piante. Ma la vodka era molto di più di una bevanda. Era moneta di scambio, cioè non esisteva non c'era un sistema economico in Russia, cioè i rubli avevano un valore assolutamente virtuale. Quando io in un mese di follia mi misi a fare borsa nera, mi sono accorta che era ancora come il Monopoli. La vera unità di misura era la vodka. Per esempio, avere un idraulico in Russia, in Unione Sovietica, era un sogno. Cioè, qualsiasi artigiano, cioè, si mandavano, se tu chiedevi quelli del caseggiato, era tutto statalizzato. Non venivano, rompevano, così. Allora, c'erano dei piccoli artigiani che non venivano mai pagati in denaro. Ho sentito telefonate, quante ne quante? 10, si parlava di vodka. come si può non bere in un paese dove il clima è spesso così rigido? E a proposito di clima, c'è un'altra storia divertente che ha a che fare con la Russia e non con l'Unione Sovietica, anche se tra le varie cose che difficilmente possono dirsi cambiate, c'è il clima. E ricordo un viaggio ultimamente, ma cos'era, 2002-2003, in un aereo con una delegazione ministeriale, insomma, e tutti mi guardavano, c'era una signora, ecco, molto elegante, che mi guardava con un intellettuale, mi guardava, porti la pelliccia? E beh, dico sì, eh. Ah, oddio, a casa mia la porta solo la cameriera. E vabbè, ho detto io, sarà mica un difetto, cioè, essere cameriere. Vabbè, ah, perché no, non si porta. Dico io, essendo abituata a stare in Russia, senza pelliccia vera, proprio vera, pesante, il più possibile. Ne ho avuta per 3 anni una del Marché aux Puces. L'animale era irriconoscibile, ma era caldissimo e tutti mi guardavano dicendo che animale è, e poi soprattutto si aspettavano delle pelliccione meravigliose, però era caldissimo, credo che fosse non un montone, una caprona, non lo so, fatto sta non ritroverò mai questa cosa qui. E allora questa signora che mi disse che ero volgare con questa pelliccia, questo parlo già della Russia post, signora italiana. Io poi un giorno siamo andati, c'era il banchetto dell'ambasciata, del ricevimento, così un giorno l'ho vista in via Gorki che entrava in un negozio di marca italiana, non sto qui a dire il nome, ma che fa, famosissimo, ma che fa una produzione tutta russa, per cui è stata costretta a comprarsi un visonone con sbrilluccichi, targhette, cose così, perché stava morendo. Prima di lasciarla ai suoi gatti, che sono ormai davvero stufi di avere un'estranea in casa, le faccio una domanda che si sarà sentita fare migliaia di volte, ma che non posso non fare. Perché la Russia? La sua risposta è la degna conclusione di questo viaggio nel tempo e nello spazio. Perché? Poi ti innamori della Russia. Esiste il mal di Russia proprio, che non è... Adesso io conosco un sacco di intellettuali che dicono «Ah, com'era bella quella Russia grigia!» E no, un accidente.